si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma adesso andiamo subito a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Di che cosa si occupano? Beh, naturalmente, insomma, delle conseguenze delle inchieste su Scajola, gli arresti, anche per quanto riguarda gli appalti dell'Expo. Poi c'è anche la polemica di Renzi sugli 80 euro ai tecnici del Senato, il battibecco con il presidente del Senato Grasso. Vediamo Corriere della Sera: Renzi contro i tecnici del Senato e mostra il cedolino con il bonus. Il Senato è un'istituzione che merita rispetto, non un carrozzone, dice il presidente del Senato Pietro Grasso, in difesa dei tecnici di Palazzo Madama che sono finiti nel mirino del premier Renzi. Avevano avanzato infatti dei dubbi sulle coperture del bonus da 80 euro. E giovedì sera Renzi in TV li aveva bacchettati accusandoli di dire cose false. Ieri è tornato alla carica e li ha definiti dei burocrati. Per dimostrare che va tutto bene, ha twittato Renzi alla sua maniera il cedolino della busta paga con gli 80 euro che gli aveva dato, ha detto in una intervista televisiva, ha detto me l'ha dato Piercarlo Padoan, cioè il ministro dell'economia. E quindi staremo a vedere. La questione delle inchieste, sempre sul Corriere, così si trucca un appalto, Expo e Sanità nelle intercettazioni, le regole della spartizione. Oggi i giornali sono pieni di, come dire, di notizie ulteriori e di pezzi di intercettazioni per quanto riguarda queste, per esempio la stampa. Ci riporta questa notizia: anche l'auto con scorta tra i favori di Claudio Scajola alla moglie del latitante, perché la bella moglie di Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e latitante all'estero, Chiara Rizzo, parlava al telefono con Scajola e lui si preoccupava, per esempio, di fornirle la scorta, l'auto blu con la scorta, quando lei dall'estero, perché anche lei si trova all'estero, dovesse venire in Italia. Chi è Amedeo Matacena, però? Ce lo ricorda sempre la stampa. Per i pentiti di 'Ndrangheta è la stabile interfaccia della 'Ndrangheta nel processo di espansione dell'organizzazione criminale a favore di ambienti decisionali di altissimo livello. Cioè era un uomo della 'Ndrangheta. E quindi, insomma, è preoccupante che un ex ministro si mettesse al servizio di un uomo della 'Ndrangheta. Questo in sostanza è l'impianto accusativo che deriva dalle intercettazioni. Fa una certa impressione, scrive la stampa, che al telefono con un ex ministro dell'interno, la moglie di Matacena, parlando con lui, Scajola diceva, parlando con lei, di avere parlato con una terza persona da un telefono pulito per garantirle che utilizzasse la sua scorta per garantire appunto alla moglie di Matacena agevoli spostamenti nel territorio italiano. Repubblica ha raggiunto Matacena con una intervista su Skype. Leggiamo un po' che cosa dice l'ex deputato. Allora... non avevo nessuna intenzione, dice lui, di andare a Beirut, sarebbe stata una follia. Scusi, dice, io mi trovo in un paese in cui non esiste l'estradizione, a Dubai si trova, e quindi perché avrei dovuto andare in Libano? Già. Tuttavia, gli domanda il giornalista, dalle intercettazioni emerge chiaramente che sua moglie Claudia Rizzo e Claudio Scajola avevano un piano per farla trasferire proprio in Libano. Ma guardi, io non so di quale piano lei parli e comunque da qui non mi sarei mosso. Cioè anche lui è espatriato a sua insaputa, cioè la moglie organizzava con Scajola di portarlo in Libano, ma lui non sapeva nulla. Può darsi, per amor del cielo. Adesso si trova in un posto dove non c'è estradizione, a Dubai, quindi è al sicuro, ma prima non era così. Come spiega le intercettazioni con l'ex ministro? Provi a mettersi nei panni di mia moglie, dice Matacena. Io sono andato via dopo la sentenza, lei era sola, con un figlio. Secondo me è andata nel panico e ha cercato di trovare una soluzione con chiunque la aiutasse. Certo che però la condanna per le sue amicizie mafiose con Giuseppe Aquila, affiliato al clan dei Rosmini, non è una cosa da poco. Cioè, intanto risponde Matacena, diciamo che Peppe Aquila lavorava a bordo delle navi di mio padre da quando aveva 14 anni.